Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Jim mi accompagnò nella prima tappa del mio viaggio di ritorno a quel mondo cui aveva rinunciato, e quel cammino parve a volte penetrare al cuore stesso di una giungla mai raggiunta dall'uomo. I bracci vuoti del fiume splendevano sotto quel sole a picco. Fra le alte pareti di vegetazione il calore incombeva sonnolento sull'acqua, e la barca, spinta con vigore, fendeva un'aria che sembrava permanere densa e calda al riparo degli altissimi alberi. L'ombra dell'imminente separazione aveva già messo fra di noi una grande distanza, e quando parlavamo lo facevamo con sforzo, come per vincere con le nostre voci un'immensa e crescente lontananza. La barca sembrava volare. Uno di fianco all'altro soffocavamo nell'aria stagnante e surriscaldata. Ci sentivamo quasi pungere il viso dall'odore del fango e della palude, dal sentore primordiale della terra feconda, finché all'improvviso, dopo una curva, fu come se una grande mano lontana avesse sollevato un pesante sipario, avesse spalancato un portale immenso. Mentre la luce stessa pareva tremare e il cielo si allargava sulla nostra testa, un mormorio remoto giunse alle nostre orecchie, e fummo avvolti da una fresca brezza che ci riempì i polmoni, ci ridestò i pensieri, il sangue, i rimpianti. E proprio davanti a noi le foreste scomparvero davanti al nastro azzurro cupo del mare. «È stupendo!» esclamai. E quindi guardai quel peccatore seduto al mio fianco. Teneva il capo affondato sul petto e disse «Sì», senza alzare gli occhi, come se temesse di vedere scritto a grandi caratteri sul cielo chiaro a largo il rimprovero della sua coscienza romantica. Ricordo quel pomeriggio nei minimi particolari. Sbarcammo su un tratto di spiaggia bianca che era delimitata da una bassa parete rocciosa, ricoperta dalla foresta alla sommità e nascosta sino al fondo da una coltre di piante rampicanti. Sotto di noi la superficie del mare, di un azzurro intenso e sereno, si stendeva come in leggera salita fino al sottile filo dell'orizzonte, all'altezza degli occhi. Un gruppo di misere capanne di stuoie sottili e fuligginose, appoggiato su alte palafitte del colore dell'ebano, sembrava posato sulla propria immagine rovesciata. Da queste si staccò una minuscola canoa nera con due uomini minuscoli, tutti neri, che avanzavano con gran fatica, colpendo l'acqua pallida, e la canoa pareva scivolare penosamente su uno specchio. Erano le povere catapecchie del paese di pescatori che godeva della speciale protezione del signore bianco, e i due uomini che stavano venendo verso di noi erano il vecchio capovillaggio e suo genero. Sbarcarono e si diressero fino a noi camminando sulla sabbia bianca, magri e scuri come pesci affumicati, con chiazze color cenere sulla pelle nuda delle spalle del torace. Avevano la testa avvolta in un fazzoletto sporco ma sistemato con cura, e il più anziano iniziò subito a presentare una lagnanza con eloquio disinvolto, protendendo il braccio sottile, fissando fiduciosamente su Jim i vecchi occhi cisposi. Gli uomini del Rajah continuavano a tormentarli. C'erano stati dei contrasti a proposito di un carico di uova di tartaruga che i suoi avevano raccolto alle isolette laggiù. E appoggiandosi alla pagaia con il braccio teso, indicò il mare con la mano bruna e ossuta. Dopo averlo ascoltato per qualche tempo, senza alzare lo sguardo, Jim gli chiese infine, in tono cortese, di aspettare. Lo avrebbe ricevuto immediatamente. Thank you. Il guaio è, osservò pensosamente Jim, che da generazioni questi miserabili pescatori del villaggio erano considerati gli schiavi personali del Rajah, e il vecchio farabutto non vuole capire che... Tacque. E lei ha cambiato tutto questo, dissi. Sì, ho cambiato tutto questo, mormorò egli con voce cupa. Ha avuto la sua occasione, aggiunsi. Davvero? Disse. Ebbene sì, suppongo di sì, sì. Ho recuperato la fiducia in me stesso, ho una reputazione e tuttavia qualche volta vorrei... No, mi tengo quello che ho. Non posso sperare in nient'altro. Stese il braccio verso il mare. Non l'ha, comunque. Batté il piede sulla sabbia. È il mio limite perché non c'è altro che possa desiderare. Continuammo a passeggiare sulla spiaggia. Sì, ho cambiato tutto questo. Proseguì lanciando un'occhiata furtiva ai due pazienti pescatori accucciati. Ma provi a pensare che cosa succederebbe se me ne andassi. Per Giove, se l'immagina. Si scatenerebbe l'inferno. Devo continuare. Continuare fermo nel mio scopo per avere la certezza che nulla possa toccarmi. Devo tenere viva la fiducia che hanno in me per essere al sicuro e per... Si fermò per trovare la parola giusta e parve cercarla sul mare. Per sentirmi vicino a... La sua voce divenne un tenue mormorio. A coloro che forse non vedrò più, a lei, per esempio. Provai una profonda umiliazione a quelle parole. Per amor di Dio, dissi, non mi sopravvaluti, pensi a se stesso. Sentivo affetto e gratitudine per quel marinaio sbandato che mi aveva notato fra la folla, che mi aveva scelto in mezzo a un'anonima moltitudine. Non mancherò alla mia parola, disse con voce quieta. Non mancherò alla mia parola. Ripeté senza guardarmi, ma lasciando per la prima volta che i suoi occhi corressero sulle acque, il cui azzurro si era trasformato in un rosso profondo al fuoco del tramonto. Ah, era un romantico, un romantico. Mi tornarono alla mente le parole di Stein. Immergersi nell'elemento distruttivo, seguire il sogno, seguire sempre il sogno, e così sempre, usque an finem. Era un romantico. Ma era anche genuino. Una piccola barca che si era staccata dalla goletta si mosse lentamente, spinta dal battito regolare di due remi, diretta alla riva sabbiosa per prelevarmi. «E poi c'è Gemma», disse nel grande silenzio della terra, del cielo e del mare, che si era impadronito a tal punto dei miei pensieri da farmi trasalire al suono della sua voce. «C'è Gemma, sì», mormorai. «È inutile che le dica quanto conti per me», proseguì. Lo ha visto. Con il tempo arriverà a capire. Lo spero, disse interrompendolo. E si fida di me, aggiunse pensoso, e quindi cambiò tono. Mi chiedo quando ci rivedremo. Mai più, se non sarà lei a venire, risposi, evitando il suo sguardo. Non parve sorpreso e per un po' rimase in silenzio. Allora addio, disse dopo la pausa. Forse va bene anche così. Ci stringemmo la mano e io mi avviai alla scialuppa che attendeva con la prua sulla spiaggia. La goletta con la vela maestra spiegata e il fiocco sopravvento danzava sul mare sanguigno. Sulle sue vele era riflessa una tinta rosea. «Tornerai a casa presto?» chiese Jim, proprio mentre avevo messo una gamba al di là della fiancata. «Fra circa un anno, se sopravviverò», dissi. Il piediruota strisciò sulla sabbia. La barca galleggiò. I remi si alzarono e si immersero una volta, due volte. Al bordo dell'acqua Jim parlò alzando la voce. «Dica loro», cominciò. Feci cenno agli uomini di smettere di remare e attesi sorpreso. Chi erano loro? Si trovava proprio di fronte al sole semisommerso. Vidi la luce rossa riflessa nei suoi occhi che mi fissavano con uno sguardo assente. «No, nulla», disse, e con un piccolo gesto della mano fece segno ai marinai di continuare. Girai gli occhi di nuovo verso la riva solo quando fui a bordo della goletta. I due pescatori seminudi si erano alzati non appena ero partito ed erano indubbiamente impegnati a riversare le miserie delle loro piccole, dolenti e oppresse esistenze nelle orecchie del signore bianco. I loro corpi scuri scomparvero nel buio dello sfondo molto prima che io perdessi di vista il loro protettore. Era bianco dalla testa ai piedi e continuò per molto tempo a rimanere visibile, con il baluardo della notte alle spalle, il mare ai piedi e l'occasione al suo fianco, sempre velata. Che ne dite? Era ancora velata? Non so. A me quella bianca figura nella tranquillità del mare e della costa pareva essere al cuore di un immenso enigma. Il crepuscolo si addensava rapidamente nel cielo sopra di lui. La striscia di sabbia era già scomparsa sotto i suoi piedi e lui stesso era diventato piccolo come un bambino. E quindi solo una macchiolina, un minuscolo punto bianco che sembrava concentrare in sé tutta la luce rimasta in un mondo di tenebre. E improvvisamente lo perse di vista. Con queste parole, Marlowe aveva posto fine al racconto e l'uditorio si era sciolto sotto il suo sguardo distratto e pensoso. Gli uomini si erano allontanati dalla veranda a coppie o da soli, senza perdere tempo e senza dir nulla. Come se l'ultima immagine di quella vicenda incompleta, la sua stessa incompletezza e persino il tono del narratore avessero reso vana la discussione e impossibile ogni commento. Fra questi ascoltatori c'era un solo uomo che sarebbe venuto a sapere la fine della storia. Questa gli giunse a casa più di 2 anni dopo, racchiusa in uno spesso plico con l'indirizzo scritto nella calligrafia diritta e angolosa di Marlowe. Il privilegiato aprì il plico e, dopo averne osservato il contenuto, lo depose e andò alla finestra. Dapprima vide che l'interno del plico era diviso in 3 parti, molte pagine scritte fittamente e tenute insieme da un fermaglio. Un foglio volante, quadrato, di carta grigia, con poche parole in una calligrafia che non aveva mai visto. E una lettera esplicativa di Marlowe. Da quest'ultima cadde un'altra lettera, ingiallita dal tempo e con le pieghe lise. La raccolse e, dopo averla accantonata, si volse al messaggio di Marlowe scorrendo rapidamente le prime righe. Quindi si interruppe e riprese a leggere con attenzione dall'inizio, come un esploratore che affronti con passo lento e occhi ben aperti la visione di una regione sconosciuta. «Non credo che lei abbia dimenticato», proseguiva la lettera. Lei solo ha mostrato per lui un interesse che andava al di là del mio racconto, pur se ricordo molto bene come non volessi ammettere che egli era riuscito a dominare il proprio destino. Preconizzava per lui il dramma della stanchezza e del disgusto, che si sarebbe accompagnato all'onore riconquistato, all'assunzione volontaria di compiti, all'amore nato dalla pietà e dalla gioventù. Lei disse che egli conosceva quel genere di cose, le loro illusorie soddisfazioni, i loro inevitabili disinganni. Disse anche, lo rammento, che dar loro la propria vita, intendendo con loro tutta l'umanità di pelle bruna, gialla o nera, era come abbandonare la propria anima agli animali. Riteneva che quel genere di cose fosse sostenibile e durevole solo quando si basava sulla salda fede in idee che nascevano dalla nostra razza, su cui si fondano i principi e gli ordinamenti del progresso morale. «Occorre avere questa forza alle spalle», aveva detto. Dobbiamo credere che queste idee siano giuste e necessarie per essere disposti a sacrificare loro consciamente la nostra vita. Senza di esse il sacrificio è solo negligenza. L'offerta non è altro che uno strumento di perdizione. Io non affermo nulla. Forse lei vorrà dare un giudizio dopo aver letto. Non ho alcuna esitazione a farle conoscere tutto ciò che so dell'ultimo episodio che, come soleva dire, gli era capitato. Ci si chiede se questa non fosse forse quella suprema opportunità, quell'ultimo esaltante cimento che egli, come avevo sospettato, stava aspettando per poter mandare il suo messaggio a un mondo senza macchie. Ricorderà che l'ultima volta, mentre ci stavamo lasciando, egli mi chiese se sarei tornato presto a casa e che all'improvviso mi aveva gridato: «Dica loro!» Ero rimasto in attesa, con curiosità, lo confesso, ma anche pieno di speranza. Ma gli avevo solo sentito aggiungere: «No, nulla!» Allora questo fu tutto. E non ci sarà nient'altro. Non ci sarà alcun messaggio se non quello che ciascuno di noi può trarre dal linguaggio dei fatti, che qualche volta sono più enigmatici delle parole più scaltramente formulate. È vero che egli fece un altro tentativo per comunicare, ma anche questo fallì, come può constatare dando un'occhiata al foglio di carta grigia accluso alla presente. Aveva tentato di scrivere. Ha notato come anonima la sua calligrafia. Reca l'intestazione «Il Forte, Patusan». Immagino che abbia realizzato l'intenzione di fare della sua casa una postazione difensiva. Era un piano eccellente. Un profondo fossato, un terrapieno sormontato da una palizzata e agli angoli cannoni piazzati su piattaforme che tenevano sotto tiro ogni lato della spianata. Doramin aveva accettato di fornirgli i cannoni. In tal modo tutti i suoi sapevano che c'era un luogo sicuro in cui ogni suo fedele partigiano poteva rifugiarsi in caso di improvviso pericolo. Osserverà che non c'è indicazione di data. Che cosa vogliono dire un numero e un nome di un giorno fra i tanti? È anche impossibile dire a chi pensasse quando prese in mano la penna. A Stein? A me? Al mondo in generale? O era soltanto il vago grido di sorpresa di un uomo solitario di fronte al suo destino? «È avvenuta una cosa orribile», scrisse prima di mettere giù la penna per la prima volta. «Osservi sotto le parole la macchia nera che somiglia a una punta di freccia». Dopo un po' aveva tentato di ricominciare, ma aveva solo tracciato faticosamente un'altra riga, come se la mano gli fosse diventata pesantissima. «Devo andare subito». Ma la penna aveva ricominciato a spandere inchiostro e questa volta aveva rinunciato. «Non c'è altro». Aveva visto un baratro che non poteva essere superato né dallo sguardo né dalla voce. «Riesco a capirlo». Si arrese all'inesplicabile, all'enigma della propria personalità, il dono di quel destino che aveva fatto del suo meglio per dominare. «Le mando anche una vecchia lettera, una lettera vecchissima. Fu trovata fra le sue carte, dove l'aveva riposta con estrema cura. È di suo padre, e dalla data può vedere che deve averla ricevuta pochi giorni prima di imbarcarsi sul Patna. È quindi molto probabile che sia l'ultima che ha ricevuto da casa, e l'aveva conservata gelosamente per tutti quegli anni. Il buon vecchio parroco era orgogliosissimo del figlio marinaio. Ho letto qualche frase qua e là, è piena di grande affetto, e basta. La virtù è la stessa in tutto il mondo, e c'è una sola fede, una sola condotta di vita, un solo modo di morire. Egli spera che il suo caro James non dimentichi mai che chi cede una volta alla tentazione rischia in quel momento la propria totale depravazione ed eterna rovina. E perciò proponiti fermamente di non far nulla, mai, per nessun motivo, che tu ritieni sia sbagliato. Ci sono anche notizie sul cane preferito e un cavallino che tutti voi ragazzi avete cavalcato. Era diventato cieco per l'età e aveva dovuto essere abbattuto. Il vecchio invoca sul figlio la benedizione del cielo. La mamma e tutte le ragazze della famiglia gli mandano un abbraccio. No, non c'è molto in quella lettera lacera e ingiallita che è sfuggita alla sua stretta affettuosa dopo tanti anni. Ad essa non ha mai risposto. Ma chi può dire quale rapporto spirituale egli abbia conservato con tutte le placide e sbiadite forme di uomini e donne che popolano quel tranquillo angolo di mondo, libero da pericoli o da conflitti, quanto può esserlo una tomba che respira serenamente l'aria di una rettitudine senza turbamento. Sorprende che lui appartenesse a questo mondo, lui a cui tante cose erano capitate. La storia degli ultimi eventi la troverà sulle poche pagine qui accluse. Deve ammettere che è così romantica da superare i sogni più folli della sua fanciullezza, e tuttavia essa ha, secondo me, una sorta di logica profonda e terribile, come se solo la nostra immaginazione potesse scatenare contro di noi la potenza di un destino ineluttabile. L'imprudenza dei nostri pensieri ricade sulle nostre teste, chi di spada ferisce, di spada perisce. Questa sbalorditiva avventura, il cui aspetto più sbalorditivo è il fatto stesso che sia vera, nasce da ciò come una conseguenza inevitabile. Qualcosa di questo genere doveva accadere. Te lo continui a ripetere e non cessi di meravigliarti che una cosa come questa sia potuta accadere nell'anno di grazia prima di questo, ma è avvenuta. Ed è inutile dire che è priva di logica. Gliel'ho esposta come se ne fossi stato testimone oculare. Le mie informazioni erano frammentarie, ma ho unito i diversi pezzi. D'altronde, ne ho trovati in numero sufficiente da rendere intellegibile il quadro. Mi chiedo come l'avrebbe narrata lui. Mi ha fatto tante confidenze che a volte mi sembra debba arrivare da un momento all'altro in persona, a raccontare la storia con le sue parole, con la sua voce noncurante e tuttavia piena di espressione, con le sue maniere spicce, un po' smarrito, un po' infastidito, un po' contrariato. Con quelle sue parole o frasi rivelatrici che di tanto in tanto consentivano all'interlocutore di avere una visione della sua vera natura e di restarne ancora più perplesso. È difficile credere che non tornerà mai più. Non riascolterò più la sua voce, né rivedrò la sua liscia faccia rosea e abbronzata, con la linea bianca sulla fronte e gli azzurri occhi giovanili che nell'eccitazione diventavano più scuri, profondi e insondabili.